Intanto Blanca aveva organizzato una catena di approvvigionamento tramite il mercato nero e i suoi agganci nei quartieri operai, dove andava a insegnare ceramica alle donne. Subiva molte angosce e molte fatiche per trafugare un sacco di zucchero o una cassa di sapone. Mise in atto un'astuzia di cui non si credeva capace per immagazzinare in una delle stanze vuote della casa ogni sorta di cose, talune decisamente inutili, come due barili di salsa di soia che comprò da certi cinesi. Sbarrò la finestra della stanza, mise un lucchetto alla porta e andava in giro con le chiavi appese alla cintura, senza togliersele neppure per fare il bagno, perché non si fidava di nessuno, compresi Jaime e la sua stessa figlia. E non le mancavano i motivi. Sembri un carceriere, mamma, diceva Alba, allarmata da quella mania di prevenire il futuro a costo di amareggiarsi il presente. Alba era del parere che se non c'era carne si mangiavano patate e se non c'erano scarpe si usavano pantofole di corda. Ma Blanca, inorridita dal semplicismo di sua figlia, sosteneva la teoria secondo cui, succeda quello che deve succedere, non bisogna calare di livello. E così giustificava il tempo perso nelle sue astuzie da contrabbandiere. In realtà non aveva mai vissuto meglio dopo la morte di Clara, perché per la prima volta c'era qualcuno in casa che si preoccupava dell'organizzazione domestica e predisponeva quanto andava a finire nella pentola. Dalle Tre Marie arrivavano regolarmente casse di provviste che Blanca nascondeva. La prima volta marcì quasi tutto e la puzza dilagò oltre le stanze chiuse, invase la casa e si diffuse nel quartiere. Jaime suggerì alla sorella di regalare, cambiare o vendere i prodotti deperibili, ma Blanca si rifiutò di spartire i suoi tesori. Allora Alba capì che sua madre, che sino a quel momento era sembrata la persona più equilibrata della famiglia, aveva anche lei le sue personali follie. Aprì una breccia nel muro della dispensa, dalla quale prelevava nella stessa misura in cui Blanca immagazzinava. Imparò a farlo con tanta attenzione affinché non si notasse, rubando lo zucchero, il riso e la farina a tazze, rompendo i formaggi e spargendo la frutta secca in modo che sembrasse opera dei topi, che a Blanca ci vollero più di 4 mesi per nutrire sospetti. Allora fece un inventario scritto di quanto aveva nel magazzino e segnava con una crocetta quanto prelevava per l'uso di casa, convinta che così avrebbe scoperto il ladro. Ma Alba approfittava della minima distrazione di sua madre per fare le crocette nella lista, sicché alla fine Blanca era così confusa da non sapere se si era sbagliata nel tenere la contabilità, se in casa mangiavano 3 volte più di quello che lei calcolava, o se era vero che in quel maledetto casermone circolavano ancora spiriti errabondi. Il prodotto dei furti di Alba andava a finire in mano a Miguel, che lo divideva tra la gente povera e nelle fabbriche, insieme ai suoi scritti rivoluzionari che incitavano alla lotta armata per sconfiggere l'oligarchia. Ma nessuno gli dava retta. Erano convinti che se erano arrivati al potere per via legale e democratica, nessuno glielo poteva togliere, almeno fino alle prossime elezioni presidenziali. Sono degli imbecilli. Non si rendono conto che la destra sta armandosi, disse Miguel ad Alba. Alba gli credette. Aveva visto scaricare in piena notte grandi casse di legno nel cortile di casa sua e poi in gran segreto il carico era stato immagazzinato dietro ordine di Trueba in una delle stanze vuote. Suo nonno, come sua madre, aveva messo un lucchetto alla porta e girava con la chiave appesa al collo nella stessa borsina di camoscio in cui portava sempre i denti di Clara. Alba lo raccontò a suo zio Jaime, che dopo aver stipulato una tregua con suo padre aveva fatto ritorno a casa. Sono quasi sicura che siano armi, gli aveva confidato. Jaime, che in quel periodo aveva la testa fra le nuvole e continuò ad averla fino al giorno in cui lo ammazzarono, non riusciva a crederci. Ma sua nipote insistette tanto che convenne di parlarne col padre all'ora di pranzo. I dubbi che nutriva gli svanirono davanti alla risposta del vecchio. In casa mia faccio quello che mi pare e porto tutte le casse che voglio. Non ficcate più il naso nei miei affari, ruggì il senatore Trueba dando un pugno sul tavolo che fece tremare i bicchieri e interruppe di brutto la conversazione. Quella notte Alba andò a trovare suo zio nel tunnel dei libri e gli propose di adottare con le armi del nonno lo stesso sistema di cui si serviva con le vettovaglie di sua madre. E così fecero. Impiegarono il resto della notte ad aprire un buco nella parete della stanza attigua all'arsenale, che dissimularono da una parte con un armadio e dall'altra con le stesse casse proibite. Di lì riuscirono a infilarsi nella stanza chiusa dal nonno, provvisti di martello e di piede di porco. Alba, che aveva già esperienza di quel lavoro, suggerì di aprire le casse più in basso. Trovarono un armamento da battaglia che li lasciò a bocca aperta perché non sapevano che esistessero strumenti tanto perfetti per ammazzare. Nei giorni successivi rubarono tutto quello che poterono, lasciando le casse vuote sotto le altre e riempiendole di pietre perché non se ne accorgessero nel sollevarle. Insieme tirarono fuori pistole da combattimento, mitra, fucili e bombe a mano che nascosero nel tunnel di Jaime finché Alba non riuscì a portarle, nascoste nella custodia del suo violoncello, in un luogo sicuro. Il senatore Trueba vedeva passare sua nipote trascinando la pesante custodia senza sospettare che nell'interno foderato di panno rotolavano le pallottole che gli era tanto costato far passare per la frontiera e nascondere in casa sua. Alba aveva avuto l'idea di consegnare le armi confiscate a Miguel, ma suo zio Jaime l'aveva convinta che Miguel non era meno terrorista del nonno e che era meglio disporne in modo che non potessero fare del male a nessuno. Esaminarono diverse alternative, da quella di gettarle nel fiume fino a quella di bruciarle in un falò, e infine decisero che era più conveniente sotterrarle in sacchi di plastica in qualche posto sicuro e segreto, qualora un giorno potessero servire per una causa più giusta. Il senatore Trueba si stupì alla vista di suo figlio e di sua nipote che organizzavano una gita in montagna perché né Jaime né Alba avevano più praticato sport dai tempi del collegio inglese e non avevano mai manifestato alcuna inclinazione per i disagi dell'alpinismo. Un sabato mattina partirono su una jeep presa in prestito, provvisti di una tenda, una cesta di cibarie e una misteriosa valigia che dovettero sollevare in due perché pesava come piombo. Dentro c'erano le armi da guerra che avevano rubato al nonno. Se ne andarono entusiasti verso la montagna, fin dove riuscirono ad arrivare, seguendo la strada. E poi proseguirono attraverso i campi, cercando un posto tranquillo fra la vegetazione tormentata dal vento e dal freddo. Lì deposero i loro arnesi e montarono senza alcuna perizia la piccola tenda, scavarono le buche e sotterrarono i sacchi, segnando ogni posto con un monticello di pietre. Il resto del fine settimana lo trascorsero pescando trote nel fiume e arrostendole sul fuoco di sterpi, andando per le montagne come piccoli esploratori e raccontandosi il passato. Di notte scaldarono vino rosso con cannella e zucchero e avvolti nelle loro sciarpe, brindarono alla faccia che avrebbe fatto il nonno quando si fosse accorto che lo avevano derubato, ridendo sino alle lacrime. Ah, oh, se non fossi mio zio mi sposerei con te, scherzò Alba. E Miguel? Ah, beh, sarebbe il mio amante. A Jaime non sembrò divertente, per il resto della gita fu scontroso. Quella notte si infilarono ciascuno nel proprio sacco a pelo, spensero la lampada a paraffina e rimasero in silenzio. Alba si addormentò in fretta, ma Jaime rimase fino all'alba con gli occhi aperti nel buio. Gli piaceva dire che Alba era come sua figlia. Ma quella notte si sorprese a desiderare di non essere suo padre e suo zio, ma di essere semplicemente Miguel. Pensò ad Amanda e rimpianse che ormai non riusciva più a commuoverlo. Cercò nella memoria la cenere di quella passione smisurata che una volta aveva provato per lei, ma non la trovò. Si era trasformato in un solitario. Dapprima era stato molto vicino ad Amanda, perché si era assunto l'impegno della sua guarigione e la vedeva quasi ogni giorno. La malata aveva trascorso diverse settimane di agonia finché non era riuscita a fare a meno della droga. Aveva smesso anche di fumare e di bere e aveva cominciato a fare una vita sana e ordinata. Era aumentata un po' di peso, si era tagliata i capelli e aveva ripreso a truccarsi i suoi grandi occhi scuri e a mettersi collane e braccialetti tintinnanti in un patetico sforzo di recuperare la sbiadita immagine che serbava di se stessa. Era innamorata. Dopo la depressione era passata a uno stato di euforia permanente e Jaime era il centro della sua fissazione. L'enorme sforzo di volontà che aveva compiuto per liberarsi delle sue numerose dosi di droga l'aveva offerto a lui come prova d'amore. Non appena gli era stato possibile, aveva tentato di ristabilire distanze con la scusa di essere uno scapolo senza più speranze per l'amore. Gli bastavano gli incontri furtivi con qualche infermiera compiacente dell'ospedale o le tristi visite ai bordelli per soddisfare le sue urgenze più pressanti, nei rari momenti liberi che il lavoro gli lasciava. Contro la sua volontà si era trovato invischiato in un rapporto con Amanda che da giovane aveva desiderato con disperazione, ma che ormai non lo commuoveva né si sentiva capace di conservare. Gli ispirava solo un sentimento di compassione, ma questa era una delle emozioni più forti che poteva sentire. Dopo tutta una vita di convivenza con la miseria e il dolore, non gli si era indurita l'anima, bensì, al contrario, era sempre più vulnerabile alla pietà. Il giorno in cui Amanda gli aveva gettato le braccia al collo e gli aveva detto che lo amava. L'aveva abbracciata macchinalmente, l'aveva baciata con una finta passione affinché lei non percepisse che non la desiderava. Così si era visto catturato in un rapporto assorbente a un'età in cui si credeva incapace di amori tumultuosi. Ah, non sono più fatto per queste cose, pensava dopo quegli sfibranti incontri durante i quali Amanda, pur affascinandolo, ricorreva a ricercate manifestazioni amorose che li lasciava entrambi annichiliti. Il suo rapporto con Amanda e l'insistenza di Alba l'avevano posto spesso a contatto con Miguel. Non poteva evitare di incontrarlo in molte occasioni. Aveva fatto il possibile per restare indifferente, ma Miguel aveva finito per catturarlo. Era maturato e non era più un giovane esaltato, ma non si era discostato affatto dalla sua linea politica e continuava a pensare che senza una rivoluzione violenta sarebbe stato impossibile vincere la destra. Jaime non era d'accordo, ma lo apprezzava e ammirava il suo carattere coraggioso. Tuttavia, lo considerava uno di quegli uomini fatali, posseduti da un'idea pericolosa e da una purezza intransigente, che quando toccano tingono di disgrazia, specialmente le donne che hanno la cattiva sorte di amarli. Non gli piaceva neppure la sua posizione ideologica, perché era convinto che gli estremisti di sinistra, come Miguel, facessero più danno al presidente che quelli di destra. Ma nulla di tutto ciò gli impediva di nutrire simpatia per lui e di chinarsi dinanzi alla forza delle sue convinzioni, alla sua allegria istintiva, alla sua tendenza alla tenerezza e alla generosità, per cui era disposto a dare la vita in nome di ideali che Jaime condivideva, ma che non aveva il coraggio di spingere sino alle estreme conseguenze. Quella notte Jaime si addormentò, oppresso e inquieto, scomodo nel suo sacco a pelo, ascoltando vicinissimo il respiro di sua nipote, e quando si svegliò, lei si era alzata e stava scaldando il caffè per la colazione. Tirava una brezza fredda e il sole illuminava con riflessi dorati le cime delle montagne. Alba gettò le braccia al collo di suo zio e lo baciò, ma lui tenne le mani nelle tasche e non restituì la carezza. Era turbato. Le Tre Marie fu una delle ultime tenute che la riforma agraria espropriò nel sud. Gli stessi contadini che erano nati e avevano lavorato per generazioni in quella terra formarono una cooperativa e si impadronirono della proprietà perché da 3 anni e 5 mesi non vedevano il loro padrone e si erano dimenticati l'uragano delle sue ire. L'amministratore, intimorito dal verso che prendevano gli eventi e dal tono esaltato delle riunioni dei mezzadri nella scuola, radunò le sue cose e prese il largo senza salutare nessuno e senza avvisare il senatore Trueba, perché non desiderava affatto affrontare la sua furia e perché pensava di aver compiuto il suo dovere avendolo avvisato più volte. Con la sua partenza, le Tre Marie rimasero per un certo tempo alla deriva. Non c'era chi desse ordini né chi fosse disposto a eseguirli, in quanto i contadini assaporavano per la prima volta in vita loro il gusto della libertà e di essere padroni di se stessi. Si spartirono equamente i campi e ciascuno coltivò quello che aveva voglia, finché il governo non mandò un tecnico agrario che diede loro sementi a credito e li aggiornò sulle richieste del mercato, sulle difficoltà del trasporto per i prodotti e sui vantaggi dei fertilizzanti e dei disinfestanti. I contadini non diedero molto retta al tecnico perché sembrava un damerino di città ed era chiaro che non aveva mai tenuto in mano un aratro, ma festeggiarono comunque la sua visita, aprendo i sacri magazzini dell'antico padrone, saccheggiando i suoi vini di un tempo e sacrificando i tori da riproduzione per mangiarne le animelle con cipolla e coriandolo. Dopo la partenza del tecnico, mangiarono anche le mucche importate e le galline da uova. E Esteban Trueba venne a sapere che aveva perso la terra quando gli notificarono che gliel'avrebbero pagata con buoni dello Stato, a rate trentennali e allo stesso prezzo che lui aveva fissato nella sua dichiarazione dei redditi. Perse il controllo, tirò fuori dal suo arsenale un mitra che non sapeva usare e ordinò al suo autista di portarlo in un'unica tappa fino alle Tre Marie, senza avvisare nessuno, neppure la sua guardia del corpo. Viaggiò per molte ore, cieco di rabbia, senza alcun piano concreto in mente. All'arrivo dovettero fermare di colpo l'automobile perché un grosso palo al cancello sbarrava il passaggio. Uno dei mezzadri montava la guardia, armato di un bastone e di un fucile da caccia senza cartucce. Trueba scese dal veicolo. Alla vista del padrone, il pover'uomo si attaccò freneticamente alla campana della scuola che avevano installato lì vicino per dare l'allarme e si gettò subito a pancia a terra. La raffica di pallottole gli passò sopra la testa e si conficcò negli alberi vicini. Trueba non si fermò a guardare se l'aveva ammazzato. Con un'agilità inattesa per la sua età, si infilò nella strada della tenuta senza guardare da nessuna parte, sicché il colpo alla nuca lo colse di sorpresa. E lo buttò a carponi nella polvere prima che si potesse rendere conto di quello che era successo. Si svegliò nella sala da pranzo della casa padronale, disteso sulla tavola, con le mani legate e un guanciale sotto la testa. Una donna gli stava applicando pezze bagnate sulla fronte e intorno a lui c'erano quasi tutti i mezzadri che lo guardavano con curiosità. «Come si sente, compagno?» domandarono. «Ah, maledetti, maledetti!» «Non sono il compagno di nessuno io!» ruggì il vecchio cercando di alzarsi. Tanto si dibatté e gridò che gli sciolsero i lacci e lo aiutarono a drizzarsi, ma quando volle uscire vide che le finestre erano sprangate dall'esterno e la porta chiusa a chiave. Cercarono di spiegargli che le cose erano cambiate e che ormai non era più il padrone, ma non volle ascoltare nessuno. Vomitava schiuma dalla bocca e il cuore minacciava di scoppiargli. Lanciava improperi come un demente, minacciando castighi e vendette tali che gli altri finirono per mettersi a ridere. Infine, stufi, lo lasciarono solo, chiuso nella sala da pranzo. Esteban Trueba si lasciò cadere su una seggiola, spossato dallo sforzo tremendo. Ore dopo venne a sapere che si era trasformato in un ostaggio e che la televisione voleva filmarlo. Avvertiti dall'autista, le sue due guardie del corpo e qualche giovanotto esaltato del suo partito avevano fatto il viaggio fino alle Tre Marie armati di bastoni, tirapugni e catene per riscattarlo, ma avevano trovato una guardia raddoppiata al cancello, armata dello stesso mitra che il senatore Trueba aveva fornito. «Il compagno ostaggio non se lo prende nessuno», dissero i contadini, e per dare enfasi alle loro parole li fecero correre a suon di spari. Arrivò un camion della televisione per filmare l'incidente e i mezzadri, che non avevano mai visto nulla di simile, lo lasciarono entrare e posarono per le telecamere con i loro più ampi sorrisi, stando intorno al prigioniero. Quella notte tutto il paese poté vedere sui suoi schermi il massimo rappresentante dell'opposizione legato, che vomitava schiuma di rabbia e che ruggiva parolacce tali che dovette intervenire la censura. Anche il presidente lo vide e il fatto non lo divertì, perché comprese che poteva essere la miccia che avrebbe potuto far saltare in aria la polveriera su cui il governo stava seduto in precario equilibrio. Inviò i carabinieri a liberare il senatore. Quando questi arrivarono alla tenuta, i contadini, incoraggiati dall'appoggio della stampa, non li lasciarono entrare. Esigevano un'ordinanza giudiziaria. Il giudice della provincia, vedendo che avrebbe potuto cacciarsi in un pasticcio e apparire anche lui alla televisione vilipeso dai giornalisti della sinistra, se ne andò con molta prudenza a pescare. I carabinieri dovettero limitarsi ad aspettare oltre il cancello delle Tre Marie finché non fu inviato l'ordine dalla capitale. Bianca e Alba ne vennero informate come tutti perché lo videro durante il telegiornale. Blanca rimase sino al giorno dopo senza fare commenti. Ma vedendo che neppure i carabinieri erano riusciti a riscattare il nonno, decise che era giunto il momento di cercare di nuovo Pedro Terzo Garcia. «Togliti quei pantaloni schifosi e mettiti un abito decente», ordinò ad Alba. Si presentarono entrambe al ministero senza aver chiesto un appuntamento. Un segretario cercò di trattenerle nell'anticamera, ma Blanca lo scansò con una spinta e avanzò con passo deciso, trascinando sua figlia a rimorchio. Aprì la porta senza bussare e irruppe nell'ufficio di Pedro Terzo, che non vedeva da 2 anni. Fu sul punto di retrocedere, credendo di essersi sbagliata. In così breve tempo, l'uomo della sua vita era dimagrito e invecchiato. Sembrava molto stanco e triste. Aveva ancora i capelli neri, ma più radi e corti. Si era tagliato la sua bella barba e indossava un abito grigio da funzionario e una muffita cravatta dello stesso colore. Solo dallo sguardo dei suoi antichi occhi neri, Blanca lo riconobbe. «Gesù, come sei cambiato!» balbettò. A Pedro Terzo invece lei sembrò più bella di quanto ricordava, come se l'assenza l'avesse ringiovanita. In quel frattempo lui aveva avuto il tempo di pentirsi della sua decisione e di scoprire che senza Blanca aveva perduto anche il gusto per le ragazze che prima lo entusiasmavano. Del resto, seduto a quella scrivania, lavorando 12 ore al giorno, lontano dalla sua chitarra e dall'ispirazione della gente, aveva ben poche possibilità di sentirsi felice. A mano che il tempo passava, riusciva a reprimere sempre meno l'amore tranquillo e sereno per Blanca. Non appena la vide entrare, con gesti decisi, accompagnata da Alba, capì che non era venuta a vederlo per ragioni sentimentali e indovinò che la causa era lo scandalo del senatore Trueba. «Vengo a chiederti che ci accompagni», gli disse Blanca senza preamboli. «Io e tua figlia andiamo a prendere il vecchio alle Tre Marie». Fu così che Alba venne a sapere che suo padre era Pedro Terzo Garcia. «Va bene, passeremo da casa mia a prendere la chitarra», rispose lui alzandosi. Uscirono dal ministero su un'automobile nera come un carro funebre con le insegne ufficiali. Blanca e Alba aspettarono in strada mentre lui saliva nell'appartamento. Quando tornò, aveva riacquistato qualcosa del suo antico fascino. Si era cambiato l'abito grigio con la tuta e il poncio di una volta, aveva ai piedi sandali di corda e portava la chitarra a tracolla. Blanca gli sorrise per la prima volta e lui si chinò e la baciò brevemente sulla bocca. Il viaggio fu silenzioso per i primi 100 chilometri finché Alba non riuscì a riprendersi dalla sorpresa e tirò fuori un filo di voce tremante per chiedere come mai non le avevano detto prima che Pedro Terzo era suo padre. Così si sarebbe risparmiata tutti quegli incubi a causa di un conte vestito di bianco morto di febbre nel deserto. «È meglio un padre morto che un padre assente», rispose enigmaticamente Blanca e non parlò più della faccenda. Arrivarono alle Tre Marie all'imbrunire e trovarono al cancello della tenuta una folla in amichevoli conversari, intorno a un fuoco su cui si arrostiva un maiale. Erano i carabinieri, i giornalisti e i contadini che stavano dando fondo alle ultime bottiglie della cantina del senatore. Alcuni cani e molti bambini giocavano, illuminati dal fuoco, in attesa che il roseo e lustro maialino terminasse di cucinarsi. Pedro Terzo Garcia fu immediatamente riconosciuto da quelli della stampa perché l'avevano spesso intervistato. Dai carabinieri per il suo inconfondibile aspetto di cantante popolare e dai contadini perché l'avevano visto nascere in quella terra e lo accolsero con affetto. «Cosa ti porta qui, compagno?» chiesero i contadini. «Vengo a vedere il vecchio», sorrise Pedro Terzo. «Lei può entrare, compagno, ma solo. Donna Blanca e la piccola Alba accetteranno un bicchiere di vino», dissero. Le due donne si sedettero intorno al fuoco insieme agli altri e l'odore avvolgente della carne bruciacchiata fece loro ricordare che non avevano mangiato dalla mattina. Blanca conosceva tutti i mezzadri e a molti aveva insegnato a leggere nella piccola scuola delle Tre Marie, sicché si misero a ricordare i tempi trascorsi quando i fratelli Sanchez imponevano la loro legge in tutta la regione. Quando il vecchio Pedro Garcia aveva messo fine alla piaga delle formiche e quando il presidente era un eterno candidato che si fermava nelle stazioni per arringarli dal treno delle sue sconfitte. Chi l'avrebbe mai pensato che un giorno sarebbe diventato presidente? Disse uno. E che un giorno il padrone avrebbe comandato meno di noi alle Tre Marie? Scoppiarono a ridere gli altri. Condussero Pedro Terzo Garcia in casa direttamente nella cucina. Lì c'erano i mezzadri più vecchi, intenti a sorvegliare la porta della sala da pranzo dove tenevano prigioniero l'antico padrone. Non avevano più visto Pedro III da anni, ma tutti lo ricordavano. Si sedettero a tavola a bere vino e a ricordare il passato remoto, i tempi in cui Pedro III non era una leggenda nella memoria della gente di campagna, ma solo un ragazzo ribelle innamorato della figlia del padrone. Poi Pedro III prese la chitarra, se la sistemò su una gamba, chiuse gli occhi e cominciò a cantare con la sua voce di velluto la storia delle galline e delle volpi, seguito in coro da tutti i vecchi. «Mi porterò via il padrone, compagni», disse dolcemente Pedro III in una pausa. «Non sognartelo neppure, figliolo», gli replicarono. «Domani verranno i carabinieri con l'ordine giudiziario e se lo porteranno via come un eroe. Meglio che me lo porti via io con la coda tra le gambe», disse Pedro III. Discussero la cosa per un certo tempo e infine lo condussero nella sala da pranzo e lo lasciarono solo con l'ostaggio. Era la prima volta che si trovavano l'uno di fronte all'altro dal giorno in cui Trueba gli aveva fatto pagare la verginità di sua figlia con un colpo d'ascia. Pedro III se lo ricordava come un gigante furibondo armato di una frusta di pelle di serpente e un bastone d'argento al cui passo i mezzadri tremavano e la natura si alterava, udendone il vocione da tuono e la prepotenza da gran signore. Si sorprese che il suo rancore, accumulato durante un tempo così lungo, si sgonfiasse in presenza di quel vecchio curvo e rimpicciolito che lo guardava spaventato. Il senatore Trueba aveva esaurito la sua rabbia e la notte che aveva trascorso seduto su una seggiola con le mani legate gli aveva ammaccato tutte le ossa e schiacciato una stanchezza di 1000 anni sulle spalle. All'inizio stentò a riconoscerlo perché non l'aveva più rivisto da un quarto di secolo, ma notando che gli mancavano 3 dita dalla mano destra, capì che quello era il culmine dell'incubo in cui si trovava immerso. Si osservarono in silenzio per lunghi secondi, ciascuno pensando che l'altro incarnava la cosa più odiosa del mondo, ma senza trovare il fuoco dell'odio antico nei loro cuori. «Vengo a portarla via di qui», disse Pedro III. «Perché?» chiese il vecchio. «Perché Alba me l'ha chiesto», rispose Pedro III. «Vada al diavolo», balbettò Trueba senza convinzione. «Bene, ci andremo. Lei viene con me». Pedro III cominciò a sciogliergli le corde che gli avevano rimesso ai polsi per evitare che desse pugni contro la porta. Trueba distolse lo sguardo per non vedere la mano mutilata dell'altro. «Mi porti via di qui senza che mi vedano. Non voglio che lo sappiano i giornalisti», disse il senatore Trueba. «La porterò via di qui dalla stessa parte da cui è entrato, dalla porta principale», disse Pedro III e si avviò. Trueba lo seguì a testa bassa. Aveva gli occhi arrossati e per la prima volta da quando poteva ricordare si sentiva sconfitto. Passarono per la cucina, senza che il vecchio alzasse lo sguardo, attraversarono tutta la casa e ripercorsero il cammino dalla casa padronale sino al cancello d'entrata, accompagnati da un gruppo di bambini irrequieti che gli saltellavano intorno e un seguito di contadini silenziosi che gli camminavano dietro. Blanca e Alba stavano sedute tra i giornalisti e i carabinieri, mangiando maiale arrosto con le mani e bevendo grandi sorsate di vino rosso dal collo della bottiglia che circolava di mano in mano. Alla vista del nonno, Alba si commosse perché non l'aveva mai notato così abbattuto dopo la morte di Clara. Inghiottì quanto aveva in bocca e gli corse incontro. Si abbracciarono, stretti, e lei gli sussurrò qualcosa all'orecchio. Allora il senatore Trueba riuscì a recuperare la sua dignità, alzò la testa e sorrise con la sua antica superbia ai flash delle macchine fotografiche. I giornalisti lo ripresero mentre saliva su un'auto nera con le insegne ufficiali e l'opinione pubblica si chiese per settimane cosa significasse quella buffonata, finché altri fatti molto più gravi non cancellarono il ricordo dell'incidente. Quella notte il presidente, che aveva preso l'abitudine di ingannare l'insonnia giocando a scacchi con Jaime, commentò il fatto tra una partita e l'altra mentre spiava con i suoi occhi astuti, nascosti dietro le spesse lenti dalla montatura scura, qualche segno di disagio nel suo amico, ma Jaime continuò a muovere le pedine sulla scacchiera senza aggiungere parola. «Il vecchio Trueba ha un bel paio di coglioni», disse il presidente. Meriterebbe di stare dalla nostra parte. Tocca a lei, presidente, rispose Jaime, indicando il gioco.